Adelea, che si dice da quelle parti? Niente, eh? E come ti capisco? Perché? E perché? Perché con questa qui attaccata non si combina niente, niente, non arriva... E perché imbabatte da un'altra parte se ti do tanto fastidio, no, eh? No, ce l'ho con te, parlavo con te. Io invece ce l'ho proprio con te, perché te ne vai a battere da un'altra parte? Sì. Perché qua sei un po' di troppo, sì. Non si batte niente con questa... Sta zitto, ti ho detto che te devi sta zitto, sto hai capito? Zitto, sto zitto. Ah, ma c'è il cliente, ecco, levati dalle palle. Vai, vai. Vai, vai. Tanto manca questa tesoria. Ah, bello. Allora che fai? Stai solo? 50. Oh, ma l'hai visto quanta roba che c'è sta qua? Guarda, amore, che valgo molto di più. Ma ti dice bene perché c'è sta la crisi. Stiamo un periodo di saldo. Allora che fa? Mannamo. Dai, che te faccio divertire, su. Ma quello chi? Ma lascio perdere quello. Guarda che quello mica è femmina. Quello c'ha la sorpresina sotto, hai capito? Sì. Oh, ma mica sarei pure te come quello di prima. Ma può essere che siete tutti froci? Invece di andare con sta bella gnocca preferite sto coso. Che ci va a fare il signore a buon gusto, cara? Sì, come no. Allora, bello? 60 per te, sì. Come 60, scusa? E state zitta, non vedi che sto a parlare col signore qua? Eh? Quanto sei stronzo. Allora? Mi fai salì? Ah, so caro, eh. Ma vattene da quell'altro giù in fondo, va. Da quelli tutti rifatti. Qui c'è roba genuina, sai. Se muovemo che c'è sta la fila? Ma devo attappare quella boccaccia, eh. Oh, ammazza, guarda che bel figone che c'è qui davanti. Ma chi? Erciauscolo qua dietro. Oh, per carità. Quella è una povera sfigata. Ma no, sfigata a chi, eh? Oh, so, sta zitta. Se sbrigamo, ti ho detto che qua c'è sta gente che lavora. Oh, ma che eh? Vuoi? Devo attappare quella bocca, eh? Ecco, hai visto, se n'è andato per colpa tua. E dammi che vuoi, se vede che gli facevi schifo. Io, eh? A barattolo, mi sa che ti ho dato una pista a guadagni stasera, eh? A proposito, senti un po', ma sarà detto di fa 50 tariffa fissa, che è sta cosa dei 60? Oh, amore, il 10 in più sa per l'altezza, che ce lo fa? Oh, amore, quando vedono che c'hai piccolo, che fai? Gli dai il resto? E comunque non va bene, o famo tutte e due la stessa cosa, oppure ognuno va a strada sua. Anzi, se te ne trovi subito un'altra, è pure meglio, che qua sei di troppo, t'ho già detto. Questo è mio, però, eh. Non te muove che t'ammazzo. Vabbè, firma, vai a lavare i calzini alla moglie, no? Amore, allora? Pure tu da solo stasera, e come? Non l'hai lasciata tua moglie? A casa a lavare biancheria, vedi che brava. E noi che famo invece? Se ne andiamo. Oh, vieni un po' qua, che so quelle luci là in fondo. Ma chi è che strilla, oh? Ma laggiù, dai parti di Teresa. Ma che succede? È una retata, andiamosene. Sta calma che magari se ne vanno, no? Ma che se ne vanno? Ma non lo vedi che ce l'hanno con Eva? Ma sono pazziti, ma so. Se ne andiamo, per piacere. Piano, fa piano che stanno arriva qua, eh. Senti, io me ne voglio andare. Fa la faccia da scema. Che ti viene pure bene quella, eh. Un altro po' mi paro deficiente. Ci penso io. Ah, buonasera, genti, tutto bene, sì? Bella serata, eh? Lo so che non potevamo stare qui, stavamo giusto a andare via, sì. Ma con voi due dove, scusi? Lascia perdere, famo come dicono, eh? Ma che stai a dire? Oh, sì, veniamo con voi, certo, vediamo come no. Ma a me dici che stai a fare, che non sai manco che cazzo so questi? Fanno sempre così. Se dovevamo fare una sveltina con loro, ci lasciano pace, eh? Sì, sì, arriviamo subito, un attimo, eh? Ma... So le regole della strada e le conosci bene. E di certo non le cambiamo io e te. Andiamo, va. Eccoci! Una stanzetta in affitto è trovata. Per momento va bene. Siamo gente deborgata. Non potremo pagare. Adria, mi hai fatto via un colpo! Ma che ce fai là? Ma chi sei te? Tu sto! Ah, già so ubriaca alle 7 di mattina. Ma quanto sei brutta! Sei bella te! Ah, non vedi questa? Ma che ce fai con quella? Secondo te che ce faccio? Grazie a voi qua è tutto un porcine. A nessuno gli frega più niente da niente. Ah, quando io ero a servizio dei conti, là girava tutto, l'orologio, tutto perfetto. Ma di che conti parli? Oh, ma che ne vuoi sapete? Io ho lavorato nella nobiltà, in mezzo a ricchi, no, come senti come voi. Oh, e allora perché sta qua a rompe? Senti, cosa? T'ho già detto che mi devi portare rispetto, chiaro? Lo so io per questo qua. Ha una lunga storia. Sveglia! Sveglia! Mi volete svegliare? Sono le 7! E piangela! Sveglia! È arrivata la vostra! Sveglia! È finito da rompere prima mattina, ma te sei impazzita, eh! C'è una lettera importante dall'amministratore! Adria, te sei svegliata finalmente! Sveglia! Sveglia! Ah, oh, ma sei brutta, te! Senti cosa, Verine sta zitta, chiaro? Tiè, c'è una lettera importante dall'amministratore per tutti i condomini. E tu che ne sai che è per tutti, eh? Ah, l'ho aperta, ma non l'ho letta, so seria io. Beh? Beh, se posso sapere che roba è? Eh? È l'ingiunzione dello sfratto esecutivo. Ce l'hanno fatta, sei contenta, eh? Ci hanno fregati! E sveglia! Che ci hanno fottuti che siamo per strada! Sveglia! Sta zitta che hanno lavorato stanotte e lasciali riposare! Ha lavorato quei due e tu ma lo chiami lavoro! È buona questa, eh! Certo, sei protettiva con loro! Adriana, ma fa puntura, che è meglio, eh? No, no, quella no! E come quella no? Ci abbiamo messo un giorno stavolta ritrovate, ma perché te ne va sempre così, eh? Mamma, mi fa male la chiappa! È certo che te fa male, ma l'hai visto che si ringoni, che fate sta puntura e non rompe i coglioni come sempre! Rita, devi sta calma! Oh, già m'ha stressata a me questa! Ma non era meglio se si perdeva, scusa? Noi qui già siamo tanti e mo che ci sfrattano, io voglio proprio vedere dove andiamo tutti! Tu non te devi preoccupare, perché in posto lo troveremo, però tu a lei così non la devi trattare! Senti Cosetta, io dico quello che mi pare, chiaro? Secondo te chi è che pulisce tutta la pappa per gatto che questa va seminando in giro, tu? Te sei proprio brutta! Marie, dove stavo stavolta? Stavi sempre al solito posto, vai sempre lì ultimamente. Sul serio? Oddio, e i miei micetti! I tuoi micetti stanno bene, ci ha pensato Maria sti giorni. E io li brucio i tuoi micetti, li faccio tutti quanti arrosto, gnam gnam gnam gnam gnam gnam, ci faccio tanti piccoli spiedini, eh? Ma me li dovete trattare male! Verina era pure un po' giù questi giorni. E Lilli? Come sta Lilli? Lilli sta bene, ha mangiato tutto. Ma Lilli è quella bianca, vero? Eh no! E Lilli è quella a pelo lungo grigio. Quella bianca è Soffio. Eppure tu mi vai a confondere Lilli con Soffio. E un po' d'attenzione, te l'ho spiegato 100 volte. E vabbè, Adria, vorrei dire che mi faccio un bel foglio, eh? Sarebbe pure caso, anche perché io prima o poi non ci starò più, no? E io mica li posso lasciare in mano tua in queste condizioni. 2 giorni me durano poracci. Vabbè, Adria, per fate sta tranquilla, il foglio me lo faccio bello grosso e glielo do pure a Benito, eh? No, no, no, Benito, no, che quello me li mangia tutti. Ma farebbe bene. Ritorno, allora, Aria, che io devo lavorare per rendere sto condominio degno di tale nome, invece che sto a fare sto perde tempo con voi e parlo di ste maledetti gatti. Lì. Zitta! E mo che c'è? Shhh! Adria, che c'è? Hai visto? È appena passato l'esaurito, quello del secondo piano. Come si chiama? Ma chi è, Alfonso? A me quello non mi piace. È un po' strano. Un po', eh? Poi rettora te! Secondo me madre, la madre è morta e la tiene tutta legata sulla seggioletta. Madria! No, dove mi retta? Io ce lo vedo con la parrucchetta che tira fuori un coltello di notte in un angolo. Vedrete, prima o poi la scopriranno. Ma scopriranno chi? Alla madre! Impagliata! E piantala, madonna santa! Ho per questo condominio dei pazzi, devo capitare, guardate! Mamma, dove sei? Vieni, mamma sta al cortile, vieni! Senti, a proposito, te e tu figlia, te e tu figlio, se ne è in ritardo non paro di mesi con l'affitto, eh? Non mi devi rompere, Rita. No, cara, non ti conviene metterti contro di me, eh? Magari possiamo arrivare a un accordo. Mi sa che tu a me non m'hai capito. No, non m'hai capito! Perché? Me devi sta alla larga! Lilli... Lilli, io me la lagno, Lilli, se non mi paghi l'affitto anche tu, capito? Ogni giorno di ritardo, un gatto in meno. Figlia, sabato arriva l'amministratore. Mi pare che siamo sotto sfratto, no? Quindi a noi che ce ne frega? No, bella, perché poi quello se la piglia con me. Mamma, l'ho visto. Era lui. Ma lui? Lui, il duce. Oddio, ci risentono sta storia. Era alto, bello e aveva un sacco di capelli. E allora non era lui? No, no, ti dico che era così. E poi chiamava tutti dalla sua televisione, uno per uno. Ma tutti chi? Noi, i suoi figlioli del partito. E che voleva? Metteteli in fila, uno per uno. Ma in fila dove? Davanti alla sua casa, alla grande villa. C'ha un villone, ma... E poi ci dava un mazzo di chiavi in mano, uno per uno, e ci diceva: queste sono per voi, sono le chiavi della vostra nuova casa, sono tutte per voi che mi seguite, e ci indicava dove andare, ma prima dovevi fare il saluto. E che saluto era? Ma come? Ancora Non l'hai imparato? No, e onestamente mamma non ci tiene, grazie. No, te lo devi imparare perché in questo periodo potrebbe servire, no? Oddio, speriamo di no. A proposito, ma quella casa tanto bella, dov'è che stava? A destra. E stanno sempre a destra le case belle, eh? Ah, ma enorme, bellissima. E poi ho pensato che poteva essere comoda perché c'ha pure il posto macchina. Cioè. Ma coglioni, peccato che noi la macchina non ce l'avemo, benissimo. E poi mi hanno chiesto a chi la vuole regalare questa casa. Io ho detto subito a mamma, a mamma mia. Amore mio, se non ci fossi te che pensi a mamma tua, eh? Ci vieni al mercato con mamma? Sì. A proposito, l'hai prese le pasticche? Sì. Sei sicuro, Benì? Lo sai che te controllo, eh? Giuro. Vabbè, lasciamo perdere. Però piuttosto ascoltami. Tra un po' che ti arriva l'amico mio. L'avvocato. Non lo famo il casino di ieri, vero? Che casino? Ci siamo capiti. Andiamo, va. Sì, sì, è arrivata. È arrivata proprio stamattina. Ufficiale, ufficiale. Ci hanno dato solo 30 giorni per lasciare l'immobile. Eh sì, sì, sì, certo che si sapeva. Ma quando arriva ufficiale è diverso, no? E che devono dire? Dicono che non se ne vogliono andare, figurate. Ah, sì. Eccoli. Mancano i miei e quelli di qualcun altro. Ma certo, sì, sì, dottore, glieli darò appena posso. E poi scusi, ma non sarà detto che se raccoglievo io i miei poteva aspettare un po'? E certo, sì, lo so, sono 4 mesi, ma il problema è che contino i miei vecchi padroni, quelli ancora non mi hanno pagato la liquidazione. Ma come non ci crede manco lei? Oh, la prossima volta che saremo le porto la foto di quando stava a servizio da loro. Lei non sa che villa, che posto e come andavo tutto io. Una lunga storia. Lei non potrebbe capire. Senta, ma invece, a proposito di quell'altra cosa là che mi aveva detto, ci sono novità. Bella piscina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Quanto saremo vicino a te noi. Oddio, Benì, hai fatto, so d'ore che sta lì dentro. Ma poi, ma che sta a fa? Oh, ma forse sta dentro Corduce. E piantala che non è stato bene stanotte. Manco io. Mi sono rimasti sullo stomaco gli spirini di gatto. Almeno strillate qualcosa, eh. Venite sbrighi a mamma che c'è la fila qua fuori. Ma poi io dico, ma tutti a st'ora dovete venire? Oh, e mica ci abbiamo il timer sul culo, sai? Oh, lo fate uscire quel deficiente là dentro. Benì, per la puttana, mamma, esci. Ma Benì, me la sto a fa addosso, eh. Benito! C'è sta un gruppo di comunisti che sta arrivando alla strada! Beh, è morto? Dove sono? Ah, Benito, là in fondo, c'è tutta l'armata rossa, va, vai! Bastardi! Oddio, i mimicetti se li mangiano i comunisti, se li mangiano! Muovite pure te, fa in fretta! Ora non mi mettete pressione, ho i miei ritmi comunque, eh! Ah, contessa, o sai se non te sbrighi i tuoi ritmi dove te li metto, eh? Conte, si è finito del rastullatte l'uccello? Ma madonna! Ho capito, qua tra un po' va andare al bagno, tocca fa domanda al ministero. Ho fatto 5 minuti, mamma mia! Ma quando riparano l'altro poi? Che so 2 mesi che va avanti sti incubo. A proposito di incubo, tra un'oretta arriva l'amico mio, l'avvocato. Buono quello! O vedi che sono l'unica a pensarla così, Mari? E infatti mi pare che se non era Bellugia stavamo col culo per terra, no? Cioè, sta a fa un favore, e vi ricordo che lo sfratto esecutivo ve lo siete già scordato, eh? Sperate no! Ma te sei sicura che è la persona giusta? Vabbè, io se volete ne conosco un altro, eh. No, già mi ha sistemato altre cose. Tipo, t'ha pagato le multe. Io, simpatica. Mi pare che siamo nella merda, no? E che nessuno di noi c'è un altro posto dove andare. E allora io vi dico, visto che è riuscito fino adesso a farci rimanere qui, damogli un po' di fiducia. Mari, ci avevo paura, lo fai capì? Noi si fidiamo, sì, ma se stiamo a fidare pure di te, mi sembra, eh. Ho capito, Marta, dammi retta. Però. Vabbè, ma alla fine che t'ha detto? Dice che la situazione è grave e che la società lo vuole a tutti i costi, sto posto, e che tra un po' arriva e ci spiega. Sì, ma in concreto, su? Te l'ho già detto, la situazione è grave, la società lo vale a tutti i costi, sto posto. Ma davvero che faccio in supermercato? Certo, altrimenti sarebbe stato più facile. È bel casino, siamo nei guai adesso. Oh, se ne accorge ora, tu, buongiorno, principino. Ma poi io dico, possibile che c'è sta modo per andare contro sta cosa? Magari. Io c'ho il terrore addosso. Mi dici se ci sbattono fuori da qua, io dove vado, eh? Perché io invece dove vado, Marì? Oh, fammi pensare, ma un paio dei clienti che lavorano al comune ce l'ho io. E magari se ritornano gli posso chiedere qualcosa, no? Sì, clienti che lavorano al comune, ma che sta a dire? Ah, bella, guarda che da me ci viene mezzo consiglio comunale, capito, sì? Vabbè, quello è vero, eh. Invece di venire con me vanno con lui. Però potrebbe essere un'idea. Voi trovate qualcuno. Io però con l'avvocato ci parlo lo stesso e poi vi dico. Ma brava, brava, eh? Dottor Becchino, salutamelo! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto i comunisti! Va bene, ma vaffanculo, va! Tornate a mangiare bambini brutti e madri comuniste! Ma che so per me? Sul serio? Ma non dovevi, no? Io. Beh sì, so un po' imbarazzato è che nessuno mi ha mai regalato dei fiori. Non so che dire, so bellissimi, grazie. Senti, ma perché fai questo per me? E cioè? Sì, ma che ti aspetti? Sì, ma io non so la persona che tu credi. Senti, ti devo parlare. Ti prego, lasciami parlare. Io l'altra sera sono venuto in quel locale con quell'amico mio per sbaglio. In realtà la sera... Ascolta, che è importante. No, non c'ho un fidanzato. Non è questo, è che io faccio una vita particolare, ecco. Che? Che mi hai scritto? Una poesia? A me? No, scusa, è che non sono abituato, sai, una poesia a me. Aspetta, però, prima di leggere la poesia ti devo dire una cosa importante. È una cosa che riguarda la vita mia e non so come spiegartela. Senti, io... E che c'entro io? Se loro mi darebbero una casa solo a me, ma che ne sanno che l'aiuterei? Se fidano di me. E chi è che li conosce? A lei ha detto che... Ah, però... Pure le sordi? E che dovrei fare a fine? Ah, tutto qua? Beh, non lo so, ci posso provare... Ma no, quello non è un problema, con l'avvocato ci parla Maria, io posso capire benissimo le sue mosse. E vabbè, io dico che va bene, che ci sto, ma nessuno deve sapere niente, chiaro? Oh, quelli sono avvelenati, se sanno qualche cosa mi denunciano subito, nessuno lo deve sapere, mai! Ma come mi chiama lei? Ma per carità! La chiamo io quando so qualcosa, ma devo capire come muovermi. Sì, la chiamo io e se fidi di me. Amici, amicetti... Vicetti, Nerina, ecco di qua, erano 2 giorni che non te vedevo. Lucy, ci sei pure tu. Sì, la vostra mammina v'ha portato la cena. Venite qua, quanto siete belli, ci sono qui io per voi, sì. E Nerina, e dai, su, fa mangiare fiorellino, non fa la solita prepotente. Eccomi qua, è buona la ciccia, eh. Fate bravi e non li rigate. Che ci hai fatto qui? Niente, cioè... Prendi questa, zitto che mi stai a spaventare gatti! Distribuisci questa a Paolo e Fiorellino, su! Dice a me? Che vedi qualcun altro? No! Oddio, ho sempre sognato di dare da mangiare... Ma chi sono Pablo e Fiorellino? Ma sono quell'idiota. Ah, certo, mi scusi. Certo, chiedi scusa pure i gatti. Dai, che si prende la carne! Ma quanti ne ha? Shh, ho detto zitto! Variano, no? Mo fissi sono 22. 22? Ma le costerà una fortuna mantenerli. Guarda come mangiano, guarda. T'ho detto zitto, un bacino. Sì. Zitto. E poi a te che te frega? Sì, che me frega a me. Che me frega. Ah, hai dato da mangiare a Fiorellino? Sì. Quello è Rossino, idiota. Scusami, Rossino. Certo, adesso chiediamo scusa pure ai gatti. No, io l'avevo scambiato per un altro. Senti bene che vuoi. Cioè, di cosa? Sei venuto da me per cosa? Io in realtà... Beh? Io, cioè lui... Dio, mamma mia! Parla! Mamma dice sempre che... E lo vedi, lo dice pure la mamma! Mamma dice... Ieri... È venuto anche ieri. Solo tu, Luce, solo tu. Ieri, Ieri è venuto ieri e vuole soldi! Sì, più della metà della pensione di mamma! Io gli ho detto no, non urlare più a mia madre e vattene da casa mia! Ma lui ha detto che se non paghiamo non ci aiuta, non ci aiuta, non ci aiuta! Benito, Benito, io e i gatti siamo con voi! Guarda! Guarda, guarda che lo dice pure Lucy, Sì. Loro ci difenderanno! Sì. E noi non molliamo! Non molliamo! Non molliamo! No, non molliamo! No, non molliamo! Nerina, ti posso accarezzare, eh? Puoi essere amica mia, io non ho amici. Vuoi venire a casa mia? Così ti presento mamma. Stasera non lavori? No, me va, stasera sono stanca. Te che stai a fare? Sto cercando di sistemare i documenti. Per cosa? Fo' sfratto, no? Ma che ti ha detto l'avvocato, te fallo? Qui non ci si capisce niente. E tra l'altra cosa più grave a cui si aggrappano è che nessuno di noi c'ha un contratto registrato, pensa. Sì, perché mo devo pure il contratto registrato. No, certo. In teoria saremmo noi che potremmo denunciare il proprietario per non avercelo registrato prima. Peccato che poi dovremmo pagare la barca dei sorti di multa. E perché scusa è lui che non ha registrato? Perché la legge è così! Non denunciandolo noi prima diventiamo complici del reato. Va bene, andiamo bene allora, dai. Ma questi hanno avvocati potenti. Ne trovano sempre una. Loro sì che sanno come muovere. Loro, Marie, io te lo ripeto un'altra volta. Loro sanno come muovere, se no il nostro. Ma perché non ne troviamo un altro che il nostro non serve un cazzo? Ma non potremo ora, Guarda, quando ti intigni così io proprio non te capisco. Perché stai a far così la dignosa su sta cosa? Parlami, Marissa, moglie te, almeno a me dimmelo perché fai così, io non ti capisco più! Vabbè. Io non gli posso togliere il carico ora. Lui mi ha bloccato una pratica di nascosto. Che hai fatto, Mari? Io niente. Ma mi avevano tolto Benito. Cazzo. Come ti avevano tolto Benito, Mari? Sì, c'era stata una certa sentenza e me l'avevano tolto. Capisci? Tolto! Lui è riuscito a far slittare tutto dei 3 anni. Dice che c'ha certe conoscenze. E nel frattempo è come se io e Benito fossimo dei fuorilegge. Vabbè, ma perché t'avevano tolto? Scusami, Come perché m'avevano tolto? Ma non mi vedi, Non mi vedi? Non c'ho una lira, non c'ho un lavoro, non c'ho una casa. Allora questo gli basta. Per togliermelo e per andare a mettere chissà dentro quel cozzo d'istituto. E quindi avvocato che t'ha fatto? L'avvocato all'inizio mi ha aiutato. Era gentile. Penso che ci avremmo pure avuto la storia. Ma Maria, è pure te però, e dai. Ma che ce lo fa? Ma che te pensi che sia facile nella condizione mia che c'è accanto un uomo? Ma che stai a dire? Ma ti sei vista? Ma non vedi quanto sei bella? Ma Benito non mi ha mai permesso di averci accanto un uomo. Ogni volta che qualcuno stava semplicemente avvicinarsi a casa, succedeva un casino. Strilli, crisi, urla, botte. Solo una volta c'ero quasi riuscita. Lui veniva sempre più spesso a cena. Era gentile, era dolce. E Benito lo stava accettando. C'è stato un momento in cui ho creduto che forse un giorno ci sarei riuscita pure io a avere una piccola famiglia. Ma non è durato. Non lo so che è successo. Perché da una certa sera in poi Benito non l'ha più voluto. Lo so, Mari, è difficile. È una storia brutta, però io... Te voglio raccontare una cosa. La sera che lui prese le sue cose e se ne andò. Mentre si allontanava. E io capivo che stava a finire pure quella storia. Mentre andava via. In quel momento. In quel momento. Io avrei voluto essere senza Benito. Me vergogno! Marì! Ascoltami! Tu non ci devi pensare a sta cosa perché tu sei fantastica con quel ragazzo. Te fai in quattro per tirarlo su, hai capito? Non ci devi pensare! Io ti ammiro a te invece, sai? Ma che ammiri a me? Sì, perché tu c'hai le palle, ce ne vuole a fare quello che fai te. Ma di quello che faccio io si chiama sopravvivenza, no palle? Infatti certe volte sono preoccupata e te lo dico perché te cerchi un'altra cosa. Ma che te pensi che io non ci ho mai pensato, eh? Ma mi dici che vado a fa'? La cameriera per 2 soldi per qualche giorno e poi ti rimandano a casa. Poi va a fa' dall'altra parte 3 giorni, 4, de prova e comunque ti rimandano a casa. Ma dove vado, Marì? Armena, la mignotta è un lavoro a tempo indeterminato. I clienti ci stanno sempre i soldi pure. Ma tu però, Marì, ma perché non ci hai detto niente? Ma almeno a me, ma lo capisci che ci hai messo a tutti nei guai? Ti potevamo dare una mano, no? C'hai ragione, però te voglio dire un'altra cosa. Giurami di sta zitta, però. Madonna, Marì, che altro hai fatto? Io do i soldi. Ma che sei scema, ma perché gli dai i soldi? Perché ho paura, perché voglio che non ci denunci. Ma se almeno lui riuscisse a sistemarci questa cosa dello sfratto, non staremmo a posto per un po'. E invece no. Però c'è Maria, che non si arrende. E Maria ora l'ha trovata e te la voglio far vedere solo a te. E basta che non la dici a nessuno. Leggi qua. Leggi. Ci potremmo provare pure senza... No, Maria è sì buona per piacere, eh. Mo stai a esagerare. Senza avvocato, dannamo. Dannamo senza sì, avvocato. Sì, basta che siamo nei tempi giusti. Ci potremmo riuscire. Qualcuno Maria, vuole giocare? Mi metto io in porta se volete. Mi metto io in porta se volete. No, bene, adesso no. Mamma esce un attimo, eh. Vengo anch'io? No. Però mi raccomando, eh. Ma vieni, se voglio sapere perché c'è sta cosa. Sta che è importante. Sì. Ciao, Beni. Ti diverti? Mi alleno. Proprio a te cercavo. Ah, sì? Ah, sì. Via, via qua. Via, siediti qua, vicino a me. Io? Vicino a te? Mica morto, che c'è? C'ho paura. Mamma non vuole che parlo con te. Te dice questo tua madre? Eh? Sì. Ah, carina mamma, poi ci faccio due chiacchiere io con mamma. Senti, Benì, c'ho un regalino qui per te. Un regalino? Che cos'è? Se lo puoi sapere troppo. Ma se è per me. Sì, ma te lo devi guadagnare. Che devo fare? Che devo fare? Diciamo che devi fare una promessa. Le so mantenere le promesse, sono molto bravo. Sì. Bravo, bravo, bravo. Allora, devi promettere, dimmi, ma solo a me, tutto quello che senti da tua madre quando parla con l'amico suo, l'avvocato. Cioè? Già, mi deve dire quello che si dicono, ma lei non lo deve sapere, eh? E no, così non è giusto. Dai, che per poco. E no, così divento una spia, ma divento. Ma che spia, spia? È solo per farmi un favore, non succede niente, No, la spia no. Vabbè, Benì, vorrà dire che il regalo lo darà qualcun altro, No, aspetta, che cos'è? No, non me lo vuoi dire, non te lo posso dire, non mi vuoi aiutare. Senti, Benì, tu c'hai ragione. Non bisogna fare la spia, tu fai bene, vorrà dire che questa bella statuetta nel duce io la darò a qualcun altro. Duce? Oddio, l'ho detto, mannaggia a me, non so tenere la bocca chiusa. E qui ne ha busta, ma la trovo a qualcun altro. No, aspetta, fermo. Senti, io c'ho fretta, devo andare. No, no, lo faccio. Non mi fido. Perché? Perché tu vuoi solo la statuetta. No. Oh, sì, e poi tu mi tradisci. No, mai tradire. Lo giuri? Giuro. Te lo giuri, eh? Beh, allora, se vuoi te la faccio vedere, eh? Ti piace, veniti, figliala, eh? È bella, eh? Mo' si trovano dappertutto, pure sulle bancarelle, eh? Che c'è? Non hai capelli. Certo, no? No, lui ha i capelli, io l'ho visto. Benì, no, è Duce con la pelota. No, tu mi stai fregando. Oddio, no, Benì. Lui aveva i capelli, io l'ho visto dalla televisione. Quando era al bar, lo guardavamo tutti, lui aveva i capelli. Non è lui. Benì, la voglio o no, sta statuetta? Sì, ma non è lui. Oddio, cazzo! Allora, affare fatto? Però, se lo sa mamma... Oddio, mamma, non lo sa mamma, io non glielo dico a mamma, glielo dici tu a mamma. No, promesso. Ecco, vedi, allora vedi che sei bravo, vedi. Bene, allora, dimmi un po', è venuto pure stamattina l'amico di tua madre, l'avvocato, no? Sì? Sì, e che cos'è che si sono detti? Che si sono detti, Benì? Tu hai promesso, che si sono detti, Benì? E che vuoi? Fai via, Benì, mannaggia, c'è sempre in mezzo, me l'hai fatto scappare! Adria, dove stai? Oh, ecco, te va. Adria, ti ho fatto un regalo, le scatolette per i gatti. Grazie. Meno male che ci sei tu, che sei un angelo. Sì. Quanto te devo? Niente, offro io queste piccole creature, eh. Oh, grazie, bambini, venite qua, questa è Marta. Salutate e ringraziate per le scatolette. Aia. Che hai fatto? Che malacchiappone. Aia. Che hai fatto? Punto. fatture. E di che? Me vogliono far sta zitta. E cioè? Me drogano! Ma chi te droga, Adriana? Su. Come mi giro zac, mi riattano una puntura sulla chiappa. Fa male, mi dispiace, sì. Perché mica la chiappa è tua. Sì. Oh, che faccia che c'hai. Beh? Niente, Adriana, non c'ho niente. A me non mi pare proprio. E vabbè, Adriana. Sto giù, è un periodo di merda. Vabbè, lascia stare là. E vabbè, ma anche a me succede di sta... Così? Però, lo sai che cosa faccio per far star meglio? Io chiudo gli occhi e mi immagino il mio funerale. Che? Sì, è il mio funerale. È come un uccello, io volo, volo e passo sul mio funerale. E vedo tutti gli uriti lì per me, i miei amici, quelli che mi hanno voluto bene. E penso a quanti di loro mi hanno voluto bene e a quanti di loro ho voluto bene io. Guarda, guarda laggiù, la mamma. E c'è pure Antonio. Oh, e là c'è Carlo. Ma chi ha detto via il Carlo? Vattene via, iettatore. Guarda, guarda che ci stanno troppo tutti. Luca, Marco. E anche... Se sembra un momento triste, in realtà non lo è. A me, pensa a quanta gente mi ha voluto bene nella vita, mi va sta meglio. Adia, stai fuori. Così pare. Lo sai che mi sento sola, Adia. Ma tu ce l'hai figli? Ora c'ho solo loro. Le uniche creature che non chiedono niente e che danno solo affetto. Dai, vieni che ti insegno tutti i loro nomi. No, devo andare a lavorare. Un'altra volta, Adria. Ti saluto. Ciao, Adria. Come vuoi tu. Meno male che ci state voi, piccoli miei. Andiamo, va. Andiamo. Taglio lontano, t'ammazzo. Oddio, tappate quella bocca. Ma che vuoi da lui, eh? Niente. Io non lo so che c'hai dentro a qua, capoccia maledetta. Ma giuro che se ti avvicini ancora a lui... abbassa i toni, stronzetta. E ti ricordo che so io con contatti con l'amministratore. Basta una mia parola e siete tutti fuori, via. Out. Già ci siamo, praticamente. Grazie a te che continueremo a cecare. Ma io non remo contro. Ah, no? Ma te sei vista? Tutte le volte che viene l'avvocato sparisci. Tutte le volte che siamo andati al comune non c'eri. E ieri che dovevamo firmare. Ma quel foglio dov'è che stavi, eh? A che gioco stai a giocare? Ricordati che potrai fregare l'altri, ma Maria no. E guardami in faccia, guardami nell'occhio. Oh, ti ripeto che devi stare zitta. Perché? Perché è la verità. Guarda che te buttano fuori pure a te. Lo so benissimo. E allora? Che te costa darci una mano? Perché sei andata a fare sto regalo assurdo a Benito? Che vuoi da lui? Senti, sta andando oltre, eh? No. Sei te che devi stare attenta, perché qui ora remiamo tutti dalla stessa parte, è un casino. Che c'è? Hai parlato con l'amministratore, dimmi la verità. Ci hai parlato, l'hai chiamato, che t'ha detto, che t'ha promesso, quanto te dà? Ma sta zitta, stronza! Allora è vero. Va via, prima che io mi incazzi sul serio, va via! Vergogna. Venite per dulire, ma non ci vedi come te siamo ridotti? Vattene, sparisci! No. Mi fai schifo. Via. Venite così! La palla? Che palla? Ah, sì! Tiro, eh? Attenti che tiro, eh? Scusate, era una prova. Eccomi, eh? E dai, non ti arrabbiare, mo te la tiro, dai! Oh, oggi non è giornata, no. E basta! Deficiente ci sarai te! E smettila! Io volevo solo giocare con voi, io so giocare, sa? Prima stavo a scherzare, che ci hai creduto? Non mi di questo, ci ha creduto. Io so giocare, sa? Pure importa se volete, so giocare. E dai, Ammazza, che palle! No, non lo dicevo a te, non dicevo a te, dai, mi fai male! Ecco, tornate da mamma, va? Io resto qui, tanto non vado, io... È ora di merenda, mamma non c'è, io non ce l'ho la merenda, è ora di merenda, mamma non c'è, io non ce l'ho la merenda. Guarda chi c'è. Giovanna, quanto è bella Giovanna. E mo mi serve un fiore. Un fiore e poi le dico, mi vuoi sposare, Giovanna? Vuoi sposare Gianni? Un fiore. Un fiore, mi serve un fiore, un fiore. Eccolo. Quanto è bello. Ma guarda, è proprio giusto per lei. Guarda. E mo chi è quello? Cosa vuole da lei? Ehi, chi sei tu? Fidanzato? No, che hai capito? Guarda che io stavo solo un fiore, io, Giovanna, ho preso un fiore per te, per te. E lasciami! Guarda che posso dargliene quanto ne voglio, mica siete sposati! Lei deve sposare me, Giovanna deve sposare me. E lasciami, Giovanna, digli qualcosa, digli di lasciarmi stare, che ho fatto? Giovanna, perché? Io ho preso un fiore per te. E tu invece? Io ti volevo solo sposare. Ragazze, Emma, Maria, venite un po' giù. Ma che c'hai? Ma che te strilli? Oh, ma come ti sei vestito? Guarda, vedi questo tutto elegante, ma dove vai? Avevo un appuntamento. Ah, capito, signorina, mo pure del giorno mi frega i clienti. Oh, madonna, che palle. Sì, avevo un appuntamento con una persona. E questi? Belli, Ma che te sei fidanzato? È fidanzato. Ah, Mari, ma fidanzato questo? Ma chi sopia? Ma sì, per piacere. Sì, vabbè, non fidanzato. E allora? Vedi questo, c'ha un fidanzato. Ato? Ato. Fidanzato, Ato. Ato. Guarda che a me mi fa piacere, ah, sì? Ma mi stai a piacere per culo. Oh, ascoltate. Allora, io c'ho una notizia grossa da darvi. Ti sposi? Bravo Benito, allora che fai, te sposi o no? Siete assurde. Benito, va al parco che mamma tra un pochetto arriva, va. E quando ti sposi? Ah, vedi questo, c'è un fidanzato Ato. Fidanzato Ato. Certo che sei permaloso però, Poi stavamo a scherzare. E dai, arrivi vestito da Big Jim e manco te si può più a per culo. Che ci volevi dire, dai. Ascoltate, il mio fidanzato... ma dai, posso? No. Posso, contesse? Posso parlare? Ho scoperto, e vi giuro che per me è stato uno shock, che lui è... Lui? Il figlio del proprietario di sto posto. È bastardo! Sì. E ciò dici mo? Ma l'ho scoperto oggi, Maria. E poi, secondo me, neanche lui sapeva che ero coinvolto. E quindi? E quindi gli ho chiesto di darci una mano, Maria. Oh mio Dio, allora devo chiamare l'avvocato. No, per carità, Maria, deve rimanere una cosa tra noi, No, ma che stai a dire? Deve sapere. Maria, no! E poi, secondo me, l'avvocato, l'amichetto tuo, è d'accordo con loro. E che t'avevo detto? Quella puzza lontano un miglio, Maria. No, secondo me è stata sbagliata, lui non c'entra. Ah, ma se me l'ha detto lui che pare c'entri qualcosa, su? Sì, ho capito, ma mi pare che non c'è sta niente di certo, no? Però mi pare che i dubbi aumentano, Maria, e qua ci stanno a Cucimberca a pottino le fregature, te lo dico io. Ma se me l'ha detto, ci sarà un motivo serio, no? E poi lui ha detto che mi ama. Ma chi è, avvocato? Federico, il mio fidanzato, Ah, piantala ancora questa cazzata del fidanzato. Ma però... Dai, è grande e grosso, ancora crede a ste stronzate, ma per piacere. Ma quanto sei stronza, guarda. Eccolo, vedi? Ma perché gli sei andata a dire così? E secondo te perché gli sono andata a dire così? Perché lo sta a coglionà, Mari, Magari no. Ma che stai a dire? Ma te pare a te che il figlio di un avvocato importante se va a mettere con uno che fa la marchetta? Ma quante volte tu sei visto Pretty Woman, te? Ho capito, però mi pare che hai una speranza in più. E noi adesso c'hanno bisogno di speranze. Sì. Soprattutto se è vero che l'avvocato c'è sta più per culo. Sì. A proposito, io lo devo chiamare, devo cercare di capire. Certo, perché tu vieni a dire a te perché sei bella. Ah, Mari, ma per favore, piuttosto ti ricordi di mandare al comune, sì o no? Mi fa che c'hai ragione. Ma che ora è domani? È domani, no? Sì. Ma alle 9 è tutto pronto? Maria, è tutto pronto, però io te lo chiedo un'ultima volta. Tu sei sicura che non stiamo a fare una cazzata? No, andiamo. No, andiamo. Sì, lei c'ha ragione, ma mica è facile, eh. Quelli ce l'hanno con me. Me si sono messi tutti quanti contro, sono convinti che io mi sia venduta a lei. Ma no, che non gli ho detto niente. Ma per carità, ma mica sono scemi, eh. Quelli là stanno a lottare su ogni cosa. Si aggrappano ogni cavillo. Che non sanno dove andare. È questa la verità. Ma no, ma stia tranquillo, ma che pena, l'ho detto così, tanto per dire. Ma sì, le ripeto, resta tranquillo. Senta, io ho fatto una promessa e la manterrò, voi mi darete il dovuto e stop. Già, mi sento una vigliacca così. Sì, mi sento una vigliacca e questa è la verità. Vabbè, è tardi, lo so, ma lo posso dire, ok? Oh, vorrà vedere lei al mio posto. Noi siamo nella stessa barca e io li sto aiutando a fondo. Sì, stia tranquillo, la chiamo io domattina. Certo che me lo ricordo quando scade l'ultimatum, la chiamo io domani mattina. Dio, senta, io... E vabbè, va, lasci perdere. Oh, l'amo? Oh, siete pronti? Sì. Dai, forza, sistemiamo. Mi raccomando, ricordate che tu sei cieco, non ci vedi, eh? Eppure tu, Adria, siete ciecati tutte e due. Per favore, fate i bravi e lasciate parlare a noi. Tu devi mettere la gamba sorda pure a bocca. Va bene, così? Sì, da qua parte, mi raccomando. No, siamo pronti. Dai. Eccoci. È permesso? Permesso? Stavamo cercando la stanza 11. Sì, siamo noi, condominio A. Sì, siamo quelli che hanno presentato la domanda d'annullamento dello sfratto esecutivo. Ah sì, dello sfratto esecutivo, certo, perché crediamo che sia giusto, dato che noi, cioè voi. Sì, vabbè, sì. Sì, dunque, il problema è che sto sfratto non può essere fatto. Ho fatto pure la rima. Brava mamma. Sì, ora. Dunque. Ma ci ha visto, dottor? Eh? Ma non lo vede in che condizioni stiamo? Sì, se siamo informati. E c'è la legge che dice che se all'interno dello stabile c'è un alto numero di disabili, e onestamente mi pare che qui non ci manchi niente, lo sfratto deve essere annullato. Allora, documentazione abbiamo portata, no? Allora, adesso che dobbiamo fa? No, stavolta siamo senza avvocato. Giusto. Vabbè, ma che significa, scusi? Ma ci ha visto come stiamo ridotti? Prenda lui. Gianni, ma noi lo chiamiamo Benito. Questo è diventato pure ciecato, ha sì, capito? Sì, sono non diventato pure cieco. Quando? Sono diventato pure cieco. Ah, vuole sapere quando? Vuole sapere quando è diventato ciecato Benito? Due mesi fa, due mesi esatti, guardi. Sì. Dunque, la documentazione va bene, ma no? Lo conosce lui? Ma lui chi, Benì? Questo signore lo conosce lui? Il nostro grande capo lo conosce? No, Benì, non lo conosce. Vedrete quando tornerà lui come trotterete dentro agli uffici. Shh, lo so, gli chiedo scusa, Che? Ma... lei! Lei sì, io. Adriana Senna. Io, eccomi qua. Dottore, è proprio brutta l'oscurità, guardi la cecità. Adriana, cosa mi guarda al centro, i signori stanno lì, Ma dottore, mi scusi, è che sti occhi sono proprio annati, guardi, è proprio una cosa... Senta, mi sembra che qua... Io, Marco Clemente, sì, un incidente. Quando? Vuoi sapere quando? Quando? Non mi ricordo. Ma che ne so, dire due mesi. Due mesi fa, due mesi. Macello. Come? C'ha ragione. È vero. Tutto due mesi fa, vero? Un periodo di sfiga, guardi. Ma una cosa è incredibile. Guarda, pensi che a noi ci si suicidavano i piccioni sul cortile. Che tu potevi capire che io addirittura mi sono annoiata da nervola. Non si poteva stare. Ma già vedi, noi stiamo ridotti così pure per quello. Ascolti, la documentazione va bene o no? Abbiamo portato pure tutti i certificati, no? Sì, sono tutti lo stesso dottore, perché? Perché? Lei vuole sapere perché? Lui vuole sapere perché? Perché ci abita vicino e viene comodo. Sì. Poi guardi, è simpaticissimo, ma quello non gli fa mancare la vista. L'hanno pure arrestato. Come l'hanno arrestato? Beh, che cazzo però. Ma i certificati nostri sono sempre validi, no? Ma come rifatti? Ma l'ha capito che stiamo sotto sfratto, sì o no? Senta, questo è un problema. Noi non ci abbiamo tempo e questa società ci vuole buttare fuori per costruire un maledetto supermercato. Se non ci volete, non vi rendete conto che cosa facciamo? Voi non ci volete, perché non vi rendete conto? State buoni, Oh. Respinto! È finita! È colpa tua, manco lo storpio, sai, fa manco quello. Oh, ma che vuoi da me, E parla e dice, ma che cazzo te parli, sta zitto, no? Pensa a questa che manca capace a pace, gattata qua. L'hanno l'ho pure arrestato per il punto. Eppure 1.000 euro si è preso per i certificati. Sto graffio della mignotta, un'altra volta. Non ci diamo tutti. E meno male che è un amico tuo, eh. C'è sempre danno a bene a fare cose con te, Contessì. Guarda che quello è cliente mio da 2 anni. E certo pensavo di potermi fidare, no? No, ve l'avevo detto, dovevamo chiamare lui, ci avrebbe aiutato. Danno a bene, sta zitto, per piacere, eh. Mi io glieli ammazzerebbe tutti sti vicetti a questa. Li uccido io, li ammazzo io, li ammazzo io, li ammazzo io, li ammazzo io. Benito, li ammazzo Benito, io, Benito, li ammazzo Benito, io. Che palle. Aia, io non parlo più con voi. Io sono arrabbiato con voi. E meno male, Benì. Ah, bella coscia pelosa. Una possibilità c'è comunque. Un'altra bella idea tua, Contessì? Se vedremo dopo, Marchesa. E comunque sì, c'ho un'idea fantastica. Vabbè, allora sì che stiamo tutti per strada, guarda. Signorina, vuole una mano? No, grazie, Beni, faccio da quelle sola. Quelle buste pesano. Beni, ho detto che quelle buste pesano. Beni, ho detto pesano. Beni, ho detto che faccio da sola. Tu non mi vuoi. Benito! Tu non mi vuoi. Benito, sta fermo. Ma che sta a fare? Fermo. Non mi vuoi. Oddio. Mi lascio perdere. Mi prego, Benito, lascio. Benito, sto qua. Stai fermo. Benito, c'è mamma. Sta tranquillo. C'è mamma. C'è mamma. Eccola. Eccola. Mamma. Eccola. No, no, no, no, no, stai tranquillo, c'è mamma. No, sì, ma sì, stai tranquillo, nessuno. Stai tranquillo, non è successo niente. Shh, shh, stai tranquillo, c'è mamma tu. C'è mamma, c'è mamma. Shh, stai tranquillo. Ehi, ehi, ehi, ci vieni a casa con mamma? Vai a casa con mamma, vai, vai. Che volete sta zitti? La volete? Ah, finita! Ma che zitti, la prossima volta gli devo ducarci in culo a quel deficiente! Bastardo! No! Oh, come stai? Eh? Oh, ma quanto deve durare sta storia, Maria? Non è la prima volta, Maria. Scusate. Oh, tieni la bada, perché la prossima volta gli abbiamo per davvero. Ma che ce ne mena a tutti? Scusatelo. Scusa di che? De che? Dai, andiamo, lasciamo perdere, andiamo a casa. Scusate. Andiamo. Guarda che t'ha portato mamma! Le figurine nuove, quelle che ti piacciono tanto! Ma no, non ti devi preoccupare, questo è l'album nuovo! Però aspetta, fammi prima aggiustare i fiori e poi le facciamo le figurine, eh? Eh sì, sì, piccolo mio, stiamo nei casini. Ci vogliono manna via. E dai, però parliamo di cose belle. Allora, domani mi voglio tagliare i capelli. È un po' che ce l'ha così lunghi. Eh no! E dai, e perché? E fammeli tagliare. Guarda che ci starò meglio. E poi da giovane li portavo così. E no, e dai. Ma voglio sentir giovane. Ogni tanto noi donne ci abbiamo bisogno di questo. Dobbiamo cambiare. Ci dobbiamo ringiovanire. Hai visto che c'è? La moglie del professore. Cioè, la seconda o la terza moglie. Quello ce l'ha avuto talmente tante. Oh. Era ora che se facesse viva, eh? Ma che aspettava che il marito risuscitasse? Guarda che fiori brutti. Mamma, 2 soldi in più li poteva pure spendere. Oppure è stata sempre col braccetto corto. Eppure il marito, tutti e due col braccetto corto. Guarda che tomba tutta rachitica, ma che vuoi mettere con la tua? Oddio, salve! Come sta? Tutto bene? Mi fa piacere. Ma era un po' che non la vedevamo qui, signora, eh? Eh no, io vengo tutti i giorni, bisogna curare le tombe, no? Sì, certo. Mi fa piacere rivederci, eh. Arrivederci. Che tirchia. Quella manco tutti i fiori ha lasciato, li riporta indietro e se farina i soldi! C'hai ragione. C'hai ragione, però guarda che tomba. Guarda a differenza con la tua. E guarda che bei fiori che ti ha portato mamma, eh. Oddio, c'hai ragione. Dobbiamo fare le figurine. Un attimo, che mo le facciamo subito, eh. Hai visto che c'è? Shhh. Ma come ti ricordi? Questa è la moglie dell'avvocato, il Paoletti. È la mignotta, sì, certo che è la mignotta. Lo sanno tutti. Aveva quasi visto, zitto! Guarda che quella si è fatta mezzo quartiere. Certo che lo so. A me me l'ha detto la fioraia che gli ha detto la moglie di quello del ristorante. E no, guarda che se certe voci girano vuol dire che so vere. E poi lo sapevo pure io. Ho visto che gioielli. Ma chi ha dati? Quella non c'ha la lira. Ah, è vero. Gli avrà dati qualche amante, figurati. Quella è piena. Ma com'è bella. Ma dove ce l'hai gli occhi? Ma ci stanno mille ragazze più belle di lei. Ma che fa? Che mamma te ne presenta qualcuna? E poi te che sei un così bel giovinotto. Ma che ci vuole a trovarne qualcuna, eh? Ah, oh. Però ricordati che quando mamma è vecchia ci devi pensare tu, eh? Non mi devi lasciare sola, capito? Non mi devi lasciare sola. Ci sarai sempre tu vicino a me. Perché sei l'unico che mi vuole bene. E quando io starò in qualche ospizio, tu mi verrai a trovare tutti i giorni. Non voglio scuse, capito? E mi parlerai. E mi racconterai storie. E sarai sempre vicino a me. Sempre. Sempre vicino a me. Sempre. Aia. Oddio. Non mi sento bene. Io ogni volta che vengo qua poi non mi sento bene. Mi hanno detto che mi sono venuti a riprendere due volte. Che ero quasi svenuta, che ero quasi... Ma io non mi ricordo. Sì. Sì, piccolo mio. Sono ricominciati quei mancamenti. È come se vedessi tutto appannato. E poi non mi ricordo le cose. Certi siringoni sulle chiappe. Un dolore. Senti, facciamo così. È meglio che io me ne vado, eh? Mica t'offendi, vero? Giura? Va bene. Allora io torno domani e te porto altre figurine nuove, va bene? Allora, ciao. Ciao, piccolo mio. Ah, mi devi scusare. Ma di che, Mario? Per Benito. Ma lascia aperte, dai. No, mi devi scusare. È che in periodaccio ci ho avuto una ricaduta mostruosa. Vabbè, ma che t'hanno detto alla visita? Che va che ti dicono quelli? Secondo loro è sta storia dello sfratto che lo sta mandando fuori di testa. Però mi sa che c'hanno ragione perché in fondo stava meglio. E da quando ha iniziato a intuire che forse ci buttano fuori, ha dato de matto. Non dorme, è sempre agitato. L'avete visto, no? Vabbè, Mari, ma sta cosa ci manda i matti a noi, ma figurati a lui, no? Infatti, perché lui c'è cresciuto qua dentro, c'ha tutte le cose sue, le sue abitudini. A me mi si spacca il cuore a dove l'ho spostato da qua. Vabbè, ma tu non ci pensi a sta cosa, perché vedrai che una soluzione la troviamo se non molliamo. Noi non molliamo. Però piuttosto te, come farai con Robertino, eh? Ma come devo fare, Mari? Ma se non trovo un'altra sistemazione, non lo potrò... Non ci posso più andare a piallo. Lo potrò vedere solo all'istituto. Ma devi vedere come gli brillano l'occhio a quello quando vado a prendere, che pure che fa schifo sto posto, è casa sua, no? Pure che è tutto contro di noi, noi non ci faremo buttare per terra, ve? Sì. Te devo dire una cosa, Mari. Che c'è? L'altra sera stavo da sola, Marta stava con un cliente, si è avvicinato uno, non lo so che cazzo voleva, non era un cliente, mi fissava strano, mi guardava, mi ha messo paura. Io te lo dico sempre però che te devi cercare un'altra cosa perché lo vedi che è pericoloso. Ma mi dici che vado a fare, Mari? Dimmi che cosa devo andare a fare io. A me lo sai che è che mi fa paura quando ti sbuca davanti uno che non sai chi è. Ti arrivano dappertutto, a piedi, dalle macchine, ti sbucano dovunque e tu non puoi fare niente. Li vedi, non sai chi so, non sai che vogliono, sai solo che dopo 5 minuti ti staranno a sbavare addosso. E tu devi sorridere, fa la carina, perché loro te pagano, no? E quindi devi fare quello che dicono loro. Te guardano con quegli occhi pieni di sesso, è schifo. Tu non sei niente per loro. Io sono un pezzo di carne da macello quando mi guardano. E allora lo sai che faccio? Io mo guardo. E in una frazione di secondo cerco di farmi piacere qualcosa. Qualunque cosa per non provare tutto quello schifo, ma non ci riesco tante volte, ma ride fa schifo tutto. E certe volte ne becchi 8, 9, tutti uguali nella stessa serata, torni a casa che non sai più manco come cazzo è l'odore tuo. Te senti addosso solo tutte ste puzze di vomito e di schifo, eppure che te fai la doccia non se ne vanno. Io non ce l'ho più un odore mio, hai capito? E lo sai qual è l'unica cosa che mi manda avanti a me, che mo fa tutte le sere sto lavoro? È mio figlio. Perché lui è l'unica cosa bella che la vita mi ha dato. Io lo so che faccio schifo come madre, ma ringrazierò sempre Dio per avermelo dato. No, non fai schifo come madre. Avete capito, Micetti? Emma è una donna molto forte. Oh, lo sai come si dice? Che più buio di mezzanotte non può essere. E allora, cazzo, prima o poi qualcosa di buono ci dirà pure a noi, no? E speriamo, Mari, che te devo dire? Adria, andiamo a far punturone, dai. Eppure oggi. E perché che festa oggi? La vuoi sapere una cosa? Io stanotte l'ho visto che scendeva di nascosto. Ma chi? C'è l'ago quello del secondo piano, Alfonso. E beh? Secondo me la nasconde in cucina. Ma chi? Alla madre. A madre? A quella imbalsamata. Ma che Alfonso c'ha la madre imbalsamata? Sì. Ma te che sta a parlare? È convinta che Alfonso c'ha la madre imbalsamata e la tiene dentro casa. L'altra sera è venuta a casa mia e gli è venuto se stavamo a vedere la televisione. No, ma lo psico, questi sono i risultati, no? Vabbè, ma pure te però, che cavolo. Credimi, l'ho vista. Ma quando, Adria, quando? E secondo me, uno di queste notti ce lo troviamo con la parrucchetta che tira fuori il coltello in un angolo. Madonna, mi stai a far venire la pelle d'oca però, eh? Oh, mo te ce metti pure te. Bisogna stare attente, è in acquato. Calmate, Adria. Ma te l'hai vista davvero la madre imbalsamata? Mm. Oh, ma che v'hai presa tutte e due? Lo vedi che pure lei c'ha dei dubbi? Oh, senti, quello pensa, è strano, a me non mi piace. Oh, e mo t'ho detto, non mi piace, non mi piace. Shhh, parlate piano, ci potrebbe ascoltare. E c'hai ragione. E che cazzo pure te? Oh, però potrebbe pure essere vero, eh? Ma che hai fumato oggi? Ma t'ho già detto, quello è strano, Maria, è strano. Certo che è strano, lavora in banca. Tutti quelli che lavorano in banca sono strani, no? Vabbè, se è per quello ci stava pure a provare con te, eh? Lo vedi, un'altra vittima pronta. Ma quale vittima? La vittima del suo museo degli imbalsamati. Infatti, a me pare che gli ho risposto picche, no? Tornerà, si è affiutato la preda, non molla. Che poi è pure brutto, quello c'ha pure il parrucchino, Maria. E infatti, secondo me, quello c'ha l'altra cosa imbalsamata, non la madre. Ma come te la lisciavi qua la cosa imbalsamata quando ti serviva il prestito, eh? Stai a tirar fuori una storia vecchia. E vabbè, dai, sto a giocare. Bisogna controllarlo, è furbo! Adriana, ma fa la puntura che è meglio, eh? Tu pensi di conoscere una persona e poi zac, a sorpresina! Andiamo, eh? Amari! Ma se fosse vero? Amore, amore, amore, amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore, voglio restare con te. Ciao, Beni. Che c'è? Di chi sono quelle scarpe? Sono le mie. Le tue? Sì, ogni tanto me le metto. Ma sono da donna. E lo so. Ma tu sei uomo. Diciamo di sì. Ah, Beni, ci sono delle persone come me che... Che? Tu sei uomo? Sì, Beni, però un po' donna. No, non si può. Cioè? O sei uomo o sei donna? E a volte non è così, Beni. No. Beni, è un discorso lungo, lascia stare. Ma lui lo sa. Cosa? Che c'è qualcuno come te. E credo di sì. Non è possibile, non può accettarlo. E allora valla a chiedere a lui, Beni. Ma come fai ad essere uomo se sei donna? Donna se sei uomo. Appunto, Beni, ti ripeto che è una cosa complicata, Ma il pisello ce l'hai? Oh, sì, E poi? E poi che, Beni? Ho chiesto che altro c'hai. Ma che c'ho da me, Benito? Che ne so, dici di essere pure donna. Io le donne le conosco, c'hanno le tette. La Bernardo. Va bene, come vedi le tette non ce l'ho, eh? E la Bernarda? Fermo, Benì, non c'ho neanche quella, non c'ho ancora. Allora che donna sei, scusa, è uno scherzo. Lasciamo stare, per favore, Benì. E no, ora mi devi spiegare, non mi puoi lasciare così, lui vuole sapere lui. E vabbè, Benì. Vuole sapere lui, vabbè, vuole sapere lui saprà tutto, adesso ti spiega Marta tua, dai. Mettete seduto, va? E mettete seduto, Benì. Oh, va Benì. Devi sapere che ci sono delle persone come ma me. Ma sei uomo o no? Ari, dai, sì. Sì, ma dentro di me c'è anche la parte di donna. Mi stai a piar per culo. È così. E dove sta? Va bene. Chi? La donna. Ma che ne so, starà dentro da qualche parte, no, Beni? Ah, Beni, non c'è una ragione precisa. Vedi? Come mi guardi tu con sta faccetta impunita? Mi guarda tanta gente, sai? E tutti vi chiedete com'è possibile. Cioè, se nasce forse, cioè se diventa. Ma sai che ti dico? Che non me ne può fregare di meno, è così e basta, Benì. Ma lui lo sa? Ancora, ma credo di sì, E ti ha detto che va bene? Secondo me non vuole. E forse c'hai ragione, Benì. Però ci posso parlare io? Veramente? Sì. A te posso dirlo, ormai siamo in confidenza con lui. E bravo Benito! Lo so che sei geloso. Oh, non sai quanto, Benito. Ci parlerò domani mattina, gli dirò che hai un problema serio. Non è così. E gli dirò che non puoi risolvere questo problema. Gli dirò che hai bisogno di lui per capire la giusta strada. E gli dirò che anche se non è la Bernarda ti senti un po' donna. Giusto? Sì, sì, perfetto, Benì. Va bene se dico un po', donna? Perfetto, sì. E gli dirò che devi pagare per questo. Non esagerare. Pagherai le tue colpe, ma tranquillo, perché tu sei un mio amico, sei amico di mamma, quindi io ti farò avere un trattamento di favore. Ti farò, e quale sarebbe, Benì? Non lo so, questo lo deciderà il gran consiglio della villa. Ah, ho capito adesso. E che dovrebbero decidere, scusa? Se devi vivere o morire. E me coglioni. Però tranquillo, perché tu sei amico di mamma, quindi io ti aiuterò a risolvere questo problema grave che non ti fa vivere. Non ti fa vivere. Benì, e fammi sapere che hanno detto poi, importante, Fammi sapere. Tranquillo. Riceverai notizie dall'alto, perché a loro non sfugge niente, tutto quello che loro vedono, sanno, non sfugge niente, e loro... Anzi, lui... Ah, lui, sì. Decide per noi. Ah, Benì, c'avevo questo dubbio. Comunque ti ringrazio. Benito. Dimmi, amico mio. C'ho un regaletto per te. Un regalino? Che cos'è? Le vuoi scarpino? No, no, no, buono, passeggiatino, su. Non capisco perché sei voluta venire. Oh, dici sempre che non vi aiuto mai. E quindi? E quindi mo sto qui. A che gioco stai a giocare, eh? Oh, senti, non mi sembra il momento di litigare, no? Non mi fido di te, Rita. E lo so! Non te capisco, c'è qualcosa di te che mi... Lo so che pensi male di me, ma te sbagli. Non credo proprio. Ah, dammi tempo, no? E vedrai che te sbagli, no? Tu te sei venuta e io non capisco perché te so continuare a rivolgere parole. Senti, io penso che in fondo noi dobbiamo stare tutti uniti. Detto da te è praticamente assurdo. Ma io sto con voi! Fai ride! Oddio, te prego, Mari, credimi! Non ci riesco, non ci riesco! Anzi, te prego, fammi un piacere. Tornate da casa, Dottore! Dottore, come sta? Oh mio Dio, ma ce la farà! L'ambulanza? E chi è che l'ha chiamata l'ambulanza? I testimoni. Ma testimoni di che? Oh mio Dio, in cinque! Ma chi sono ste merde? Dove stanno? Li voglio vedere! Ma come sono scappati? Ma chi erano? Dove stanno ste merde? Li voglio vedere! Mari, sta calma! L'importante è che Adriana è fuori pericolo, no? Povera Adriana. Grazie, grazie, dottor. Ci tenga aggiornata, Grazie. E dai, che ce la farà? Ha detto che le ferite sono esterne, no? Chi sono sti bastardi, Ma hai sentito? Non lo sanno manco loro. Oh, l'hanno menata vicino casa. Povera Adriana, perché te la sono andata a prendere proprio con lei? Che ha fatto? Noi dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Ma che va? Sta calma e cerca di ragionare, no? Che dovevamo aspettare? Non te capisco, che dovevamo aspettare? Dovevamo aspettare, non sappiamo chi sono. Magari Adriana quando si sveglia ci dirà qualcosa. Anche se... Anche se che io? Anche se io penso di aver capito chi può essere stato. È così, dammi retta. Io non ci riesco, va bene? No, non ce la faccio. Ma guarda che ci ho provato, che pensi, eh? È che ogni volta che qualcuno mi ha amato, io che ho fatto? L'ho distrutto. Sì. Sì, mi succede questo. È come se mi scattasse qualcosa dentro che... Sono marcio. E guardami. Guardami, sono marcio dentro. Falla finita. Ma non vedi che vita che faccio, eh? Chi so. Ma come fai, eh? Come fai ad essere innamorato di uno come me? Io... Te voglio bene, sì, è vero. Ma non pensavo di potermi innamorare di qualcuno. E per questo ti dico che deve finire qua. Se mi vuoi bene veramente, ma se mi vuoi veramente bene come dico io, mi devi lasciare andare. Come? Ma che sa di? Ma come non sei riuscito a fare niente per lo sfratto, eh? E tuo padre? Ma avevi detto che gli avresti parlato. E quindi? Lo vogliono a tutti i costi, no. No, mi sa che io e te non ci siamo capiti. Noi da qua non se ne andiamo, hai capito? Ah, e che pensi, eh? Pensi che ci avevamo paura? Ah, sì, ci menano a tutti. E mo che c'entra Adriana? Un altro avvertimento? Ma quando? Stasera? A casa? Scusa, ma che vuol dire troppo tardi, eh? Cos'è troppo tardi? Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante. Erano tanti, ma io ho provato a dirglielo. Ho provato a dirgli che non andavamo via da casa nostra, ma non ci sono riuscito. I bastoni. Avevano i bastoni. E lui non ci ha protetto, ma perché io... Gli avevo chiesto di proteggerci, ma non l'ha fatto, perché che gli costava? Facevano male. Tanto male. Io volevo solo mandarli via. Andate via da casa nostra, ma non ci sono riuscito, ma... Sei stato bravissimo. No, non li ho fermati. Sei stato un eroe. Davvero? Tutti lo pensano. Tutti lo dicono. Tutti? Ma un eroe di quelli veri? Sì. E parlano di me? Ma... Mi sento strano. Ascoltami, Benì. Mi abbracci, ma... Non posso ora. Perché non puoi? Mi abbracci, ma... Ascoltami, Benì. Sì, ma... Ora mamma dovrà partire. Mi prometti d'essere forte, eh? Me lo prometti? Ma perché? Perché vai via? Io... Ascolta, Benì. Ora mamma non te potrà più aiutare. Tu dovrai imparare a cavartela da solo. Ma io voglio venire con te, non mi lasciare da solo. No. Ora dovrai fare quello che ti dico. Dovrai ubbidire a loro. Dovrai fare sempre quello che ti diranno loro. Perché loro ti vogliono bene e ti aiuteranno. Ma io non voglio restare con loro. Devi. Fa sta tranquilla, mamma. Mamma deve partire. Me devi far sta serena. Eh? Me fai sta serena. Non ti ho difeso, vero, ma? Menavano. E tu sei cascata per terra. Menavano forte. E tu strillavi. Non te devi preoccupare. Mamma è più forte di loro. Ti fa male? No. Mamma ora sta bene, non sente più niente. Sei guarita? Diciamo di sì. Sei bella, ma... Ma io posso venire qualche volta lì dove vai tu? Vedremo. Facciamo una cosa, quando arrivi lì glielo chiedi, così io ti raggiungo subito. Vabbè, io chiedo. Io Voglio stare solo con te. Io pure, amore mio. Mamma, lo sai che domani vado a giocare a pallone con Marta? Me l'ha promesso. Hai visto? Hai visto che te vanno bene, Benì? Oh, gioca bene a palla, eh? Che mamma da lassù te guarderà sempre.